Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, questa sera parliamo dell'euro, parliamo dell'Europa, parliamo delle prospettive della moneta unica, prospettive indubbiamente delicate, problematiche, come hanno dimostrato gli ultimi avvenimenti e il rinvio, diciamo, del problema della Grecia. Ne parliamo sulla base di un libro, L'Europa tra ripresa e squilibri, di Marco Fortis e Alberto Quadrocurzio. Buonasera Marco Fortis. Buonasera. Marco Fortis è docente di economia industriale presso la Cattolica di Milano e direttore e vicepresidente della Fondazione Edison. E Alberto Quadrocurzio. Buonasera Quadrocurzio. Buonasera. Professore emerito di economia politica, editorialista del Sole 24 Ore e presidente della classe di scienze morali dell'Accademia dei Lincei, oltre che consigliere della Fondazione Edison. Ecco, questo libro raccoglie molti contributi pubblicati negli ultimi anni su vari giornali, tra cui principalmente il Sole 24 Ore, che Alberto Quadrocurzio e Marco Fortis hanno dedicato al tema europeo. E questo libro è diviso in pratica in tre parti, uno dedicato all'insieme dell'Eurozona, l'altro alla Germania, la terza all'Italia. Ecco, nell'introduzione dite che la scelta di questi tre parti non è casuale. Come mai, Alberto Quadrocurzio? Non è casuale perché nelle discussioni che Marco Fortis ed io continuamente teniamo e che portano a una visione sostanzialmente condivisa, pur con le ovvie differenze di valutazione, si ritiene che l'Eurozona e l'Unione Europea potranno adeguatamente riprendersi anche e forse solo se uniranno alle varie politiche monetarie anche delle vere e proprie politiche di investimenti che potenzino l'industria, che potenzino le infrastrutture, che potenzino la tecnologia, anche perché in seguito alla crisi grave come quella che abbiamo avuto non si esce solamente con politiche monetarie ma anche con politiche che si riferiscano ovviamente all'economia reale. Direi che questa è l'intonazione iniziale. Poi le declinazioni su Germania e su Europa hanno degli aspetti più specifici che andranno visti dettagliatamente anche nel nostro dibattito attuale. Ecco, direi, allora parliamo della Germania. La Germania come punto elemento centrale non solo per la sua potenza economica ma anche per le sue scelte politiche. Marco Fortis, perché la Germania è l'elemento fondamentale che può in fondo decidere il futuro dell'Europa? Marco Fortis. Perché la Germania certamente in questa crisi dell'Eurozona ha avuto le sue colpe e il volume, anche in interventi, miei articoli, ha messo in evidenza queste colpe della Germania. Quindi il libro è critico verso la Germania, ma allo stesso tempo è anche costruttivo verso la Germania, perché soltanto con una stretta collaborazione, soprattutto tra i grandi paesi fondatori dell'Unione Europea, quindi Germania, Francia, Italia, e con l'aiuto della Spagna, si può veramente rilanciare una politica economica europea dove diciamo anche gli egoismi che hanno poi portato i ritardi nel soccorso della Grecia, la mancanza di solidarietà, vengano definitivamente superati, proprio per realizzare quella politica di investimenti di cui parlava prima Quadrocurzio. Ecco, si può dire Marco Fortis che salvare la Grecia in un certo senso può essere più conveniente per la Germania che non dover subire le ripercussioni di un fallimento di un'azione come la Grecia, di cui la Germania peraltro è creditrice. Marco Fortis. Sì, la Germania era ancor più creditrice della Grecia per la verità quando è scoppiata la prima crisi della Grecia, ed è proprio i ritardi nel soccorso alla Grecia a quel tempo hanno portato ad accumularsi i problemi e a renderli poi anche di più difficile gestione nel momento presente. Adesso l'accordo che è stato raggiunto è un accordo di fatto che è un compromesso, come è stato sottolineato dagli analisti, dagli osservatori, perché la Grecia ha chiesto moltissimo all'Europa, ha chiesto l'impossibile, e di fatto la Germania si è mostrata molto dura, ma non solo la Germania, anche altri paesi che hanno fatto sacrifici come la Spagna e il Portogallo hanno manifestato una certa resistenza ad accogliere le richieste della Grecia. Alla fine è stato trovato un compromesso nell'ambito del quale la Grecia comunque si impegna a continuare a portare avanti una serie di riforme che sono essenziali, perché altrimenti questo paese, a differenza di altri, dello stesso Portogallo per fare un esempio, che ha una manifattura forte, che ha un export, la Grecia non ha un'economia reale che la possa far ripartire e quindi è necessario che riforme vengano fatte per potenziare il sistema economico greco, che è estremamente debole. Ecco, veniamo allora all'Italia. Di fronte a questa situazione di fragilità complessiva della costruzione europea, l'Italia ha pagato molto duramente il peso della crisi, è stato il paese che è cresciuto meno degli altri paesi europei durante appunto tutti gli anni della crisi. Adesso qualche elemento positivo sembra esserci all'orizzonte. Questo perché è cambiato un po' anche l'atteggiamento dell'Italia verso l'Europa e dell'Europa verso l'Italia, Alberto Quadrocurzio. L'Italia è un paese davvero curioso, perché è quello che ha fatto i maggiori sacrifici contando esclusivamente sulle proprie forze. Non dimentichiamo che la Spagna ha fatto tanti sacrifici, ma si è presa anche un credito di 100 miliardi utilizzato per 40-45, e tuttavia è stata a lungo considerata l'Italia come la parte più debole dell'Europa. In realtà, come ha dimostrato Marco Fortis in molte analisi, l'Italia ha accumulato degli avanzi primari di bilancio mostruosi nel corso degli ultimi anni, ha sempre tenuto fede ai propri impegni sia di interessi che di rinnovo del debito, anche quando gli interessi erano diventati straordinariamente pesanti, e tuttavia è stata a lungo considerata la parte debole, la parte veramente debole d'Europa. L'altra contraddizione italiana è che la sua manifattura continua a macinare dei surplus, degli avanzi commerciali formidabili, e dunque l'Italia è un paese che ha bisogno di due terapie, anzi direi di tre terapie. Una, farsi conoscere meglio e di più da tutti gli altri partner europei. La seconda, che deve essere assertiva in Europa, ma non puntare a delle rotture, perché le rotture non servono a nulla. Bisogna cambiare ma non rompere, l'atteggiamento greco non paga. E la terza caratteristica, che dovrebbe specificamente andare a rendere l'Italia più competitiva, è quella delle riforme strutturali, che per la verità in questo momento cominciano ad esserci, ad essere anche evidenti, ad essere anche riconosciute all'estero. Riforme strutturali che non siano riconosciute dall'Europa sono importanti laddove lo siano nella sostanza, ma non bastano, perché non danno quella fiducia ai partner europei di cui noi abbiamo bisogno. Ecco, una fiducia che negli ultimi tempi, nelle ultime settimane, sembra essere ritornata. Questo famoso spread fra i titoli italiani e i titoli tedeschi è tornato sotto quota 100, questo dimostrerebbe appunto che i tempi in cui l'Italia era sotto osservazione speciale sono in fondo superati, c'è una fiducia anche dei mercati finanziari. E Marco Fortis, lei nelle sue analisi appunto mette in luce come sia forte ancora l'industria italiana, la capacità di andare verso i mercati internazionali, nonostante che l'industria, si è detto, ha perso tra il 20 e il 25% della sua capacità produttiva, proprio dovuta alla crisi economica. Resta forte l'industria italiana? Marco Fortis. L'industria italiana certamente ha sofferto molto durante questa crisi, soprattutto per il crollo della domanda interna. Quindi una gran parte della capacità produttiva è stata sacrificata, perché la domanda interna è scomparsa la domanda delle famiglie, è scomparsa anche la domanda ovviamente di beni di investimento, perché quando c'è in sovracapacità produttiva poi si investe di meno. Però a livello di export l'Italia ha sempre tenuto botta negli ultimi anni e ha realizzato delle crescite formidabili delle proprie esportazioni. Questo si è trasformato anche in un momento di riduzione dell'import per effetto dell'austerità in uno straordinario incremento del surplus commerciale con l'estero. Noi avevamo un deficit di 30 miliardi di euro nel 2010, e questo deficit si è trasformato in un surplus di 43 nel 2014, quindi c'è stato un turnaround di 73 miliardi di euro di miglioramento in 4 anni, ma ancor più la bilancia manifatturiera con l'estero è cresciuta dai 38 miliardi circa del 2010 a quasi 100 miliardi nel 2014, quindi una crescita che dimostra la competitività dell'industria italiana sui mercati internazionali e di un settore produttivo che comunque è l'unico in Europa, la nostra industria, ad avere una dimensione più grande per fare un confronto di quella del Baden-Württemberg e della Baviera messe insieme, cioè non c'è nessun altro paese in Europa che ha un'industria più grande di quella della Baviera e del Baden-Württemberg insieme. Questo è una risorsa fondamentale su cui l'Italia ovviamente deve continuare a investire nel futuro, anche perché le nostre specializzazioni produttive si stanno rivelando vincenti, non soltanto quelle tradizionali che ormai si collocano nei settori del lusso e sono molto ambite anche dai consumatori dei paesi emergenti, ma soprattutto la nostra specializzazione si è estesa anche alla meccanica e all'industria farmaceutica, dove stiamo raccogliendo grossi successi. Possiamo forse parlare di un certo rinascimento industriale, anche se in maniera forse diversa da quanto è avvenuto negli Stati Uniti, ma stiamo avviandoci alla conclusione. Vorrei una battuta finale dal professor Alberto Quadrio Curzio. Noi negli anni, all'inizio degli anni 2000, con l'euro, con i tassi bassi, non abbiamo saputo in fondo cogliere le grandi opportunità dello scenario che era cambiato. Adesso abbiamo uno scenario ancora favorevole in cui si è aggiunto un prezzo del petrolio abbastanza basso, molto più basso che nel passato, i tassi sempre bassi, un dollaro che sta rivalutandosi rispetto all'euro, quindi ci sono molte opportunità per l'industria italiana. Possiamo essere ottimisti di poter riuscire a cogliere queste opportunità, Alberto Quadrio Curzio? Io sono molto fiducioso. Credo che una finestra di opportunità, come si suol dire oggi, qual è la presente, difficilmente si ripresenterà in futuro. Il problema italiano è di trovare quella coesione tra tutte le forze responsabili del nostro paese, siano esse politiche, economiche, sociali, perché altrimenti il nostro paese non avrà un'altra opportunità come questa. Dunque l'appello che io mi sentirei di fare è di ricordarsi che il sistema paese è fatto di una comunità di persone che vogliono lavorare e dunque lasciare più da parte quelle che sono le conflittualità, cercare quella unità sistemica che peraltro hanno paesi più importanti del nostro come la Germania, per rilanciare il nostro paese, paese pieno di risorse ma paese pieno anche di conflittualità. I problemi sono fatti apposta per essere risolti, speriamo che sia così e speriamo che ad ogni problema ci possa essere una soluzione in questa prospettiva, nel mettersi appunto insieme e guardare verso le grandi opportunità che l'Italia ha sempre avuto e che spesso non ha saputo sfruttare e adesso deve sfruttare. Grazie ad Alberto Quadrio Curzio, grazie a Marco Fortis di essere stato con noi per parlare del loro libro L'Europa tra ripresa e squilibri, Eurozona, Germania e Italia, edito dal Mulino, sono 240 pagine per 18 euro. Grazie anche a Peter Bescapè in regia, Luca Cremonese in redazione. L'appuntamento con Economia in Pagine è per sabato prossimo.